cherera urimo simunganitende mani cherera urimo simunganitende ine chimbarame chakunyanya mani cherera urimo simunganitende mani cherera urimo simunganitende ine chimbarame chakunyanya Simukondwera nane mukandiona ndikuchita.